Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi ritorniamo alle guide pratiche del Sole 24 Ore. Il numero in edicola oggi affronta un tema estremamente delicato: separazioni e divorzi. Delicato perché basta dare un'occhiata ogni giorno alle pagine di cronaca dei giornali per verificare quanto per qualcuno il peso di una separazione sia insopportabile. Delicato anche per le implicazioni economiche ed emotive che queste scelte comportano: la divisione dei beni, l'assegnazione della casa, gli assegni di mantenimento e il tema più importante di tutti, l'affidamento dei figli. Oggi la guida offre le consuete istruzioni per l'uso, per orientarsi in una materia molto complessa dal punto di vista delle procedure, ma non solo. Ci sono anche alcune cifre fornite dal Sole. Per 4 coppie su 10 il matrimonio si conclude in tribunale. Le separazioni sono in forte aumento, poco meno del 30% rispetto alle nozze celebrate. Questa era una statistica di un anno fa. Poi ci sono le unioni che intraprendono la via giudiziale. Il Sole li chiama i rapporti di forza, che sono all'incirca 216 ogni 1000 matrimoni. La strada scelta in prevalenza è quella della fine di comune accordo. Le separazioni consensuali sono infatti circa il 70% di tutte le separazioni, quanto ai tempi l'attesa per una giudiziale, quando non c'è l'accordo fra i coniugi, si aggira sui 2 anni. Insomma, ma potremmo dare tante altre cifre per rappresentare questo fenomeno. Noi oggi però volevamo soprattutto rispondere alle vostre domande, intanto con il collega Giovanni Parente del Sole 24 Ore, che ha coordinato la guida di oggi. Giovanni, ciao, bentornato a Salva Danaio. Grazie a te Deborah e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. E naturalmente poi non potevamo fare a meno di un legale che ci aiutasse ad orientarci bene nella materia, l'avvocato Carmelo Padalino del Foro di Catania, esperto di diritto di famiglia per il Sole 24 Ore, ha scritto diversi articoli sulla guida di oggi. Avvocato, buongiorno e grazie di essere nostro ospite a Salva Danaio, buona giornata. Buongiorno a voi, grazie a voi per l'invito. Come ricorderete, la guida pratica del Sole vi offre l'opportunità anche di inviare dei quesiti direttamente agli esperti che il Sole mette a disposizione. Potete collegarvi al sito www.ilsole24ore.com/separazioni. Potete inviare appunto le vostre domande scegliendo fra alcuni macro argomenti di riferimento: affidamento dei figli, richieste e modifica del mantenimento, assegnazione e revoca della casa familiare, spese straordinarie. È un tema molto interessante, l'ho scoperto leggendo la guida di oggi: l'accesso ai documenti del coniugi. Poi vi faremo capire appunto in cosa consiste appunto l'analisi di questo punto. Le risposte alle vostre domande le troverete domani sul sito del Sole 24 Ore e domani sul quotidiano, e a partire da dopodomani, Giovanni, sì, la dinamica me l'ero dimenticata, e a partire da dopodomani invece sul sito del Sole 24 Ore. Allora, potete rivolgere delle domande anche a noi all'800 24 00 24, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 o l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. In 10 nanosecondi la borsa, perché avete sentito già bene cosa sta succedendo oggi nel giornale radio. Ci ritorneremo alle 13. Borse piuttosto negative risentono della crisi libica, ne risente soprattutto Piazza Affari, meno 2% sul FTSE MIB in questo momento, perché molti dei gruppi quotati hanno numerosissimi interessi con il regime del colonnello Gheddafi. In pregilo meno 5,77, Eni meno 4,35, Unicredit meno 3,38, Ansaldo meno 3,15, e potrei fare una lista che non finisce più, Saipem meno 1,91. Il petrolio è a $105 al barile. Questo è il quadro di oggi. Ricordo anche che Wall Street è chiusa per il President Day. Però sui temi di borsa vi ricordo l'appuntamento nel GR delle 13. Lasciamo il mercato finanziario, andiamo al tema di oggi appunto prendiamo spunto ancora una volta dalla guida pratica del Sole 24 Ore. Sentiamo quali sono i passi in tribunale quando la coppia va in crisi. Quando finisce un amore e moglie e marito decidono di intraprendere strade diverse, oltre al dolore che spesso la scelta comporta, ci sono diverse procedure da seguire. Innanzitutto, la separazione, consensuale o giudiziale, si apre con un'istanza al tribunale del luogo di residenza dei coniugi. In questa sede è possibile già chiedere l'addebito, vale a dire l'attribuzione della fine del rapporto a uno dei due coniugi, l'assegnazione della casa e l'assegno di mantenimento. In caso di separazione consensuale, il giudice omologa l'accordo tra le due parti se ritiene che sia tutelato l'interesse di eventuali minori, altrimenti apre una causa per risolvere la questione. Nella giudiziale, invece, il presidente detta i provvedimenti urgenti, rimettendo gli altri aspetti al giudice. L'autorizzazione a vivere separati è il primo passo verso la domanda di divorzio, che può essere effettuata dopo un periodo ininterrotto di 3 anni dalla separazione. Per quanto riguarda invece le unioni di fatto, la legge non detta una disciplina specifica, ma in presenza di figli, questi ultimi, hanno gli stessi diritti di quelli nati da genitori sposati. La regola generale da seguire, dunque, anche in questo caso, è quella dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Figli, redditi, contributi economici sono naturalmente i campi in cui spesso avvengono gli scontri più duri. E come dire, azzeccando la previsione che con Giovanni Parente avevamo fatto prima dell'inizio della trasmissione, ci siamo detti chissà se chiameranno più uomini o più donne. Vedo già che effettivamente la tendenza prevalente è quella di ricevere delle telefonate da parte del mondo maschile. Poi cercheremo di capire perché. Altre indicazioni interessanti che arrivano un po' dall'esame, dall'analisi che avete fatto su questo fenomeno di separazione e divorzi in Italia, Giovanni, leggevo che vittima della sindrome da matrimonio sono soprattutto le coppie liguri. Sì, sono le coppie che hanno un rapporto più alto in termini di separazione rispetto ai matrimoni celebrati, quindi insomma siamo oltre il 50%, cioè siamo una separazione ogni 2 matrimoni. Quindi più una... stoica invece la Calabria. In Calabria che... forse è in tutto il sud, diciamo che la tenuta dei rapporti matrimoniali è più forte rispetto al nord. Allora Giovanni ci ha già portato anche alcune delle domande che stanno arrivando al sito delle Sole 24 Ore e chiaramente il tema più gettonato è quello economico, no? Nelle richieste di chiarimento su come gestire il contributo ai figli. E quello è il vero campo di battaglia che si scatena dopo la separazione di una coppia, perché prima di tutto c'è la sfida per l'affidamento del figlio, ma in qualche modo la legge sull'affido condiviso ha fatto venir meno un terreno di battaglia, disponendo che l'affido condiviso è la regola. Però poi c'è tutto il discorso legato al contributo economico, anzi ai contributi economici, perché non c'è solo l'assegno di mantenimento da corrispondere al figlio o al genitore che convive con il figlio, che questa è la regola base. La separazione e il divorzio non sono campi standard, quindi se si modificano le condizioni economiche di uno dei coniugi si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Alcune domande, ad esempio, ci chiedono: ho avuto una nuova compagna, un nuovo figlio con una mia nuova compagna, ecco, in questo caso sono tenuto sempre a versare l'assegno di mantenimento? Di solito sì, cioè, però, è la variabilità di quell'importo che dipende dal contesto in generale e soprattutto dalle condizioni, dalle esigenze attuali del figlio, e quello è il perno su cui essenzialmente il giudice decide la quantificazione dell'assegno. E infatti, e poi in tribunale, come ci diceva appunto Giovanni, si scatenano le battaglie di ogni tipo, perché ovviamente si gioca sempre a ribasso, anche se entrambi i genitori hanno, come dire, in via teorica sempre a cuore il bene dei figli, poi però chiaramente quando si discute di soldi non ce n'è per nessuno e si porta molto spesso, leggevo anche sempre dalla guida del Sole 24 Ore appunto, qualcuno a comportarsi in maniera a volte anche indegna, addirittura negando il fatto di avere un lavoro pur di non riconoscere al coniuge che magari appunto è assegnatario dell'affidamento la quota prevista dal giudice, Giovanni, no? Assolutamente sì. Ti racconto un caso che è uno dei casi poi tra l'altro evidenziati anche nella pagina sul diritto d'accesso. La questione riguardava un dipendente pubblico, quindi insomma un dipendente pubblico a cui il giudice della separazione aveva chiesto di portare i CUD, perché oltre alla parte di retribuzione, come dire, fissa, la busta paga, c'è una parte legata a degli incrementi di straordinari. Quindi una quota variabile. Ecco, lui non ha portato alcuno dei documenti che il giudice gli aveva chiesto di portare in tribunale. A quel punto la ex coniuge, la moglie, è andata dall'amministrazione pubblica presso cui l'ex marito lavorava e si è vista rifiutare il diritto d'accesso ai CUD. Il TAR invece gli ha dato ragione sostanzialmente, dicendo che non è un documento che è coperto da privacy, non è un documento su cui c'è un top secret, un vincolo di riservatezza, e a quel punto ha ordinato all'amministrazione pubblica in questione di presentare i CUD all'ex coniuge e l'ha anche condannato l'amministrazione pubblica al risarcimento delle spese giudiziarie sostenute dalla moglie. Ecco, questo è un caso, diciamo, di occultamento dei documenti che in qualche modo fanno un po' di di cornice, di strategia, di questo gioco delle parti che si scatena anche dopo le separazioni. Che in genere anche un gioco al massacro. Allora, avvocato Padalino, avvocato Carmelo Padalino del Foro di Catania, lo abbiamo già definito, il nostro esperto di diritto di famiglia, lo fa per il Sole 24 Ore, per la guida di stamattina ha scritto parecchio. Un punto sul quale la guida di oggi si sofferma con grande vigore che è quello relativo al fatto che si riconosce che la legislazione della materia è oggi assolutamente inadeguata. Cosa disciplina divorzi e separazioni oltre al codice di famiglia, quindi al codice civile, quindi il diritto di famiglia del 75 e anche la legislazione precedente che era quella sul divorzio del 70? Mi sembra che oggi la materia sia prevalentemente disciplinata da TAR e sentenze della Corte di Cassazione. Ma guardi, io intanto volevo agganciarmi un attimo al vostro discorso precedente per dire che l'ottica da cui dovrebbe muovere sia il coniuge che vuole andare a fare una causa di separazione, ma anche l'avvocato, dovrebbe essere quello di leale cooperazione e collaborazione, perché questo, diciamo, a monte elimina tutti questi inconvenienti che voi giustamente avete detto e quella conflittualità che poi agita le parti durante i procedimenti. Quindi, ad esempio, a mio avviso, una domanda da non fare perché è inutile, che porta via del tempo al procedimento, è la domanda di addebito, che innesca appunto un conflitto sotto il lato morale che non ha nessun tipo di beneficio per le parti. Che cos'è la domanda di addebito, avvocato Padalino? Significa chiedere che la separazione venga addebitata ad uno dei coniugi per infedeltà piuttosto che violazione di altri doveri matrimoniali, come ad esempio il disinteresse mostrato nei confronti dell'altro coniuge oppure una grave carenza nei confronti dei figli. E detto questo, sì, mi dica. No, non avevo interrotta, quindi eravamo al punto della... mi ero persa anche un po' con lei. No, perché è un tema molto interessante, che la situazione molto diffusa che si manifesta, quella più frequente sicuramente che dicevamo prima, che al momento del ricorso per la separazione arriva la richiesta economica di uno dei coniugi, che a volte è anche del tutto spropositata. C'è un approccio a volte un po' ingenuo anche alla separazione, avvocato. Sì, è un approccio che giudizio banale. Non considera questo dovere sia di responsabilità genitoriale, ma anche di dovere nei confronti dell'altro coniuge, cioè le richieste dovrebbero essere a monte basate su quello che è il tenore di vita della famiglia, su quelle che sono le spese effettive. Non ha senso ed è controproducente fare una richiesta esorbitante solamente per tentare, sperando che poi il giudice magari sia distratto oppure non tenga in considerazione i documenti oppure si ha la difficoltà, come giustamente avevo detto prima, da parte dell'altro coniuge di produrre questi documenti tempestivamente e quindi non si può sostanzialmente replicare per tempo a quello che è la richiesta, diciamo, astronomica che formula uno dei coniugi. E questo ovviamente ha tutta una serie di ricadute sulla conflittualità certo, che noi avvocati per primi dovremmo, come dire, limitare. Quindi, come dire, invitando al buonsenso anche le persone che sono ovviamente nel mezzo della separazione. Allora ci dobbiamo fermare perché abbiamo la prima pausa, 800 24 00 24. Adesso cominciamo a sentire anche le considerazioni degli ascoltatori e lo torno a ribadire, sono soprattutto molti uomini quelli che ci stanno chiamando. Non abbiamo commentato il tema della legislazione sulla materia, che appare oggi assolutamente inadeguata, anche se in Parlamento siedono attualmente lì fermi da un po' di tempo alcuni provvedimenti sul divorzio breve. C'è anche tutto il tema appunto delle coppie di fatto, delle unioni di fatto, che deve essere ancora disciplinato, e temo che quello sia, come dire, un problema che al momento la politica non ha a cuore. Comunque ci fermiamo, ritorniamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta, oggi a Salva Danaio affrontiamo un tema complicato, delicato per tutte le implicazioni che ha, separazioni e divorzi in forte crescita nel nostro paese, e non si ha più la pazienza per niente. Insomma, questa può sembrare una considerazione molto banale, ma sicuramente le unioni reggono molto meno del passato per tanti fattori socioculturali che sono cambiati negli ultimi anni, e Giovanni Parente a questi fattori socioculturali però non ha fatto riscontro anche un adeguamento dal punto di vista legislativo della materia. No, diciamo che l'adeguamento lo stanno facendo i giudici con le loro sentenze, insomma, in qualche modo si è creato, ad esempio qualche anno fa, quando c'è stata la legge sull'affidamento condiviso, il problema di chi dovesse stabilire il mantenimento per i figli delle coppie di fatto. no? Perché la legge sull'affido condiviso vale sia per i figli separati sia per i figli di non coniugati. A quel punto, non essendo la legge chiara, è dovuta intervenire la Cassazione, che di fatto ha stabilito un doppio binario, cioè quando si chiede anche l'affidamento dei figli e il mantenimento decide il tribunale per i minorenni, quando invece si va solo per chiedere il mantenimento dei figli decide il tribunale ordinario. Quindi questo è un caso di doppia competenza, viene detto in giuridichese, che però in qualche modo ti fa capire quanto la materia abbia bisogno di un disegno unitario e anche di una competenza unitaria, tant'è che da molto tempo si parla di tribunale della famiglia. Circa 30 anni. Una trentina d'anni, esatto, praticamente alla tua età la discussione. Allora, io volevo adesso anche un po' per strammatizzare, per non dare un tono eccessivamente pesante anche all'argomento di questa mattina, anche se per qualche famiglia in realtà poi queste situazioni portano anche delle tragedie emotive oltre che economiche. Carmen, la saluto perché ci racconta che suo marito il 12 luglio è scappato a Bucarest da un'architetta conosciuta su Facebook. Siamo senza figli, aspetto ancora la richiesta di separazione, i documenti, corrispondenza, videochiamate, scoperte da me per caso, ci racconta la nostra ascoltatrice, sul computer possono essere usati in tribunale, la separazione sarà consensuale e mio marito non ha lavoro e al momento, come già lo mantenevo io, è mantenuto dalla rumena, quindi non posso chiedergli nulla, vero Carmen? Io l'unica cosa che mi viene da dire è che ringraziamo il cielo che si sia liberata di questo fardello di uomo. Adesso non so se è una considerazione che vale la pena fare a Salvadanaio, però mi sentivo di farla perché non ne posso proprio fare a meno. Detto questo, avvocato Padalino, questa è una questione economica da gestire abbastanza complicata, mi sembra. L'ascoltatrice chiede se la corrispondenza, probabilmente con questa architetta conosciuta sul social network, e le videochiamate possono essere strumenti da utilizzare davanti ad un giudice. Ma guardi, i documenti possono essere acquisiti, ma in forma ufficiale, quindi dubito che un stampare, diciamo, dei documenti da Facebook possa essere diciamo prodotto senza violare la privacy. È però possibile formulare delle domande e chiedere, diciamo, al coniuge il riscontro, quindi che ci sono stati effettivamente questi contatti, e magari citare anche l'architetto, la nuova compagna, per confermare questi aspetti. Ritengo, come ho detto prima, che sia totalmente inutile poi alla fine, diciamo, fare questo tipo di attività. Per quanto riguarda il mantenimento, sicuramente se il marito non svolge attività lavorativa ed è stata lei fino a questo momento a mantenerlo, non può chiedere lei a questo punto di essere mantenuta. Allora, andiamo ad altri casi, e quindi la variazione della condizione economica di uno dei due coniugi a distanza da qualche anno della separazione, che cosa implica questo? Santo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Senta, no, io sono separato da 11 anni, sì, e al momento della separazione avevo stabilito una certa cifra. Nel frattempo io sono andato in pensione. Adesso, per modificare la cifra, cosa devo fare e la posso fare? Mm-hmm. Allora, lei praticamente in base a questa separazione che cosa era stato stabilito? Deve mantenere ancora dei figli e dei figli minorenni? No, solo la moglie. Solo la moglie, sì, solo il coniuge. Avvocato Padalino, credo che Santo abbia i requisiti per modificare l'assegno di mantenimento, gli alimenti, la moglie o no? Ma questo dipende, perché il pensionamento, se da un lato è considerato un fattore, diciamo, negativo, perché il reddito pensionistico generalmente è inferiore a quello percepito durante l'attività lavorativa, quindi l'ascoltatore sicuramente ha avuto una diminuzione di guadagno, però dall'altro ha percepito il TFR o il TFS se è un dipendente pubblico, che sono somme di una certa entità, e quindi soprattutto se il pensionamento è stato, diciamo, è avvenuto di recente, quell'acquisizione di soldi potrebbe andare a coprire questo. Come? No, ma di questo peggioramento che ha avuto. Inoltre, se l'ascoltatore è in giovane età, il pensionamento potrebbe, come dire, garantire la possibilità di svolgere un'altra attività lavorativa, e quindi questo potrebbe essere anche un elemento da considerare. Quindi sicuramente potrebbe essere un motivo per chiedere la riduzione se ha influito sulla sua condizione economica. Se guadagna di meno e non ha, come dire, dopo tanti anni più la possibilità di utilizzare il TFR, la somma percepita, però potrebbe anche non essere un motivo sufficiente. E insomma, l'idea che debba farsi consigliare da un legale su quello che è il comportamento più adeguato da adottare, non è che da un momento all'altro il fatto che percepisca la pensione implica in automatico una revisione dunque degli alimenti passati alla moglie. Avvocato, mi sembra di capire questo. Ogni situazione va considerata di per sé. Esatto, bisogna considerare tutti gli elementi, e soprattutto, ripeto, il TFR, la somma percepita TFR, che e un incremento patrimoniale, mm-hmm. quindi potrebbe bilanciare il peggioramento da pensionamento. Allora andiamo a Marco da Modena, buongiorno anche, sì, buongiorno. Anche la sua nana. Le volevo chiedere come si fa a decidere in sede giudiziale l'assegno di mantenimento, cioè ci sono delle tabelle in base al bambino, l'età che ha, oppure insomma in base al reddito del coniuge che non sarà più del bambino, mm-hmm. Cioè in base a quello che prende ci sarà una percentuale. In fase giudiziale qual è il parametro? Mm-hmm. Per quantificarlo. Marco, il problema è che non esiste un solo parametro, men che meno esistono delle tabelle standard, Giovanni, a cui fare riferimento, assolutamente, perché qua appunto ribadiamo il fatto che ogni situazione è un caso a sé, quindi bisogna vedere stile di vita, oltre che i redditi percepiti, le esigenze del bambino, esatto, dei bambini, se ci sono le attuali esigenze del figlio, la formula che indica la legge è quello il parametro prioritario essenzialmente per poter poi decidere il valore dell'assegno di mantenimento. È chiaro che poi c'è un adeguamento che è legato a dei parametri Istat, dei valori Istat, però sono sempre le situazioni soggettive che determinano la quantificazione dell'assegno di mantenimento. E quindi insomma nessuna tabella standard alla quale fare riferimento, quindi non è che il nostro ascoltatore può andare su internet e dire insomma sulla base dei guadagni che avevamo questa sarà probabilmente la quota che dovrò versare alla famiglia per il nostro mantenimento, per il mantenimento del figlio. Allora, avvocato Padalino, un ascoltatore, Andrea da Napoli, ci rappresenta questo caso. Sto cominciando a parlare in giuridica anch'io, mi sto preoccupando. Sono separato consensualmente da novembre scorso, ho due figli, 9 e 14 anni, che vivono a casa della mamma che ho in comproprietà con la mia ex e su cui c'è un mutuo che stiamo pagando a metà. Oltre a questo verso un assegno per i figli di 700 euro. La mia ex mi ha comunicato che vuole andare a convivere con il suo compagno fra 18 anni, quindi ha pianificato questa scelta, che sarà graduale evidentemente. Ho diritto a chiedere la metà del valore della casa nel caso in cui questa donna voglia convivere con il suo nuovo compagno in questa nostra ex casa? Avvocato. Ma guardi, se i figli sono ancora minorenni oppure raggiungono la maggiore età ma non sono indipendenti economicamente, il fatto di convivere con un nuovo compagno o una nuova compagna non determina la revoca dell'assegnazione della casa, quindi la moglie può convivere con questa terza persona purché non abbia ricadute negative sui figli. In questo caso è chiaro che non è l'assegnazione della casa o la mera convivenza, adesso è il rapporto che hanno i figli con questo compagno ad essere per loro pregiudizievole. Purtroppo la legge sull'affidamento condiviso aveva previsto una revoca automatica e immediata, ma la Corte Costituzionale con una sentenza del 2008 ha stemperato questo effetto e ha detto che comunque non c'è questo automatismo, ma la revoca deve passare sempre dall'interesse del minore, quindi sicuramente la moglie può convivere e non ha l'ascoltatore diritto ad avere metà dell'importo. Avvocato, c'è la percezione diffusa fra alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo è che una volta che si divorzi si debba mantenere un coniuge per sempre, ma è sempre così? Ma purtroppo la tendenza anche della Cassazione sia nei confronti del coniuge cosiddetto debole che dei figli è piuttosto ampia, cioè si tende effettivamente a dare una rendita per molto tempo. Qui secondo me sta a chi vuole revocare l'assegno, quindi chi non vuole pagare più, attivarsi con lo strumento dell'accesso che è spiegato anche nel dossier del quotidiano per dimostrare che in realtà o il figlio maggiorenne ha iniziato a lavorare oppure l'altro coniuge magari ha ricevuto un'eredità piuttosto che ha iniziato un'attività lavorativa, in modo tale da eliminare quelle disparità reddituali e poter chiedere la revoca dell'assegno. Quindi secondo me chi ha interesse deve essere audace, farsi parte attiva e trovare documenti che dimostrano che non deve più pagare. Allora, 800 24 00 24, stanno continuando ad arrivare le telefonate di molti ascoltatori, sono pronti Mauro da Biella e Alessandro da Sondrio, a cui chiedo solamente un minutino di pazienza e siamo pronti con i suggerimenti per chi è in viaggio, poi sentiremo anche i loro casi, a tra poco. Allora, Giovanni Parente, divorzi e separazioni, il tema della guida pratica di oggi del Sole 24 Ore. C'è un paio di ascoltatori che ci richiedono di nuovo come fare per accedere al sito, per rivolgervi delle domande, come sono anche organizzati gli argomenti intorno ai quali è possibile chiedere e inoltrare dei quesiti. Allora, primo passo, collegarsi al sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/separazioni. Ci sono cinque ambiti, macro ambiti in cui è possibile inviare delle domande, che sono quelli che riguardano appunto l'attribuzione assegno di mantenimento, l'assegnazione la revoca a casa familiare, affidamento dei figli, spese straordinarie e il tema del diritto all'accesso. La domanda deve essere breve e sintetica, senza saluti iniziali né finali. Le risposte in parte saranno pubblicate domani sul quotidiano e saranno invece tutte disponibili sul sito a partire da mercoledì mattina. Allora andiamo a Mauro da Biella, perché invece vuole raccontarci il caso del mantenimento di una figlia che sta crescendo, sta finendo il liceo, quindi sta diventando maggiorenne, e credo che si chieda fino a quando debba mantenerla, anche perché adesso credo che questa ragazza cominci l'università. Mauro, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Velocemente vi faccio subito la domanda, così non tolgo tempo agli altri. Non si preoccupi, sì. Io divorziato da 11 anni, divorziato proprio da 11 anni, ho sempre mandato il mantenimento, ho sempre pagato le spese scolastiche extra al 50%. Adesso, come dicevate, deve finire il liceo, dovrà andare a fare l'università. Siccome le spese saranno molto più alte e io per far fronte a queste spese dovrei indebitarmi, cioè dovrei proprio andare a fare un prestito, lo devo fare o posso contribuire per quello che possono le mie proporzionalmente finanze rispetto a quello che lei può? Mauro, la ringrazio. Avvocato Padalino, qui non abbiamo ovviamente un padre che vuole sottrarsi ai suoi doveri, tutt'altro, però di fatto la nuova condizione della figlia che andrà all'università cambierà drasticamente anche, come dire, l'organizzazione economica di Mauro. Cosa deve fare? Trovarsi un secondo lavoro per continuare ad assistere? In realtà diciamo, il mantenimento è dovuto, perché la figlia ancora non è indipendente e comunque fin quando può studiare ha diritto a farlo per soddisfare quelle che sono le sue ambizioni. È chiaro che ciò deve avvenire nei limiti delle condizioni economiche della famiglia. Quindi se il padre non può garantire alla figlia l'università privata o l'università fuori sede, anche se più prestigiosa rispetto a quella che ha in città, è chiaro che questo non si può pretendere dal padre, no? Di indebitarsi oppure di fare un secondo lavoro. Tutto è legato a quello che è il tenore di vita della famiglia. È chiaro che se lui può dare il suo contributo e deve darlo fin quando la figlia non diventa economicamente indipendente, questo va rapportato anche alle condizioni economiche dell'altro coniuge, della madre, perché ad esempio quando l'ascoltatore ha detto spese extra al 50%, e questo è un errore comune, perché in realtà anche le spese straordinarie, che sono una forma di mantenimento, vanno ripartite in base alle capacità economiche dei genitori. Quindi se in questo caso la madre ha maggiori capacità economiche, per cui guadagna più del padre, dovrebbe pagare una quota maggiore di spese straordinarie, non necessariamente al 50%. Ecco, per spese straordinarie, avvocato Padalino, che cosa si intende? Perché ce ne possono essere di vario tipo, ci possono essere quelle assolutamente imprescindibili da sostenere, se caso Dio non voglia che capiti mai all'interno delle famiglie, però può capitare una spesa, diciamo, di natura medica, che può essere del tutto eccezionale ovviamente nella vita anche di un figlio, però lì è chiaro che i genitori devono concorrere. O al contrario ci può essere qualcosa di estremamente light, voluttuario, come la scuola di danza, e in quel caso come ci si comporta di fronte a questa spesa straordinaria? Ma guardi, le spese straordinarie vengono definite dalla Cassazione come quelle spese sostenute per soddisfare esigenze saltuarie, esigenze imprevedibili, esigenze che non sono attuali dei figli. Quindi, ricollegandomi anche alla domanda dell'ascoltatore sul mantenimento di figli, criteri, no? Se noi calcoliamo che in un anno, magari nell'anno precedente a quello attuale, il figlio ha avuto determinate spese, determinate esigenze, tra cui la scuola di danza, che non è imprevedibile, il figlio va 3 volte a settimana a fare danza, no? Quindi è prevedibile, e che in questo caso noi possiamo anche capire cos'è ordinario e cos'è straordinario. Ad esempio, se un figlio ha necessità di recarsi ogni 15 giorni dal dentista, ecco, quella spesa medica non è più straordinaria, ma è prevedibile. Certo. Se il figlio invece va male a scuola e a partire da aprile ha bisogno di un insegnante privato, ecco, quella è una spesa straordinaria. Viceversa, se il figlio ha magari dei problemi di salute e quindi già dall'inizio anno ha bisogno di un assistente scolastico, con una spesa che non è a carico o del comune o dello Stato, ecco, i genitori sanno che è prevedibile, non straordinaria, e va inclusa nell'assegno di mantenimento. Quindi sicuramente è giusto quello che dice lei, cioè che straordinario di per sé sono le spese relegate alla salute, però per capire esattamente cos'è straordinario dobbiamo considerare le esigenze di quel minore della coppia in crisi, non certo. In generale. Alessandro dalla provincia di Sondrio, buongiorno, rapidissimo se ce la fa, grazie. Buongiorno, allora io ho un anno che sono separato, ho firmato la separazione, ho un bambino di 8 anni. Sì. Io passo mensilmente 550 euro al mese, passo. per il mantenimento, e lei continua a dire che non gli bastano questi soldi. Premetto che lei non lavora e vorrebbe più soldi, non so come fare. Allora, ecco, mamma mia. No, tra l'altro mi legavo anche al messaggio di un ascoltatore di Paolo da Venezia che brutalmente dice: è vero che molti uomini agiscono in modo ignobile, ma è anche vero che per molte donne l'ex diventa una fonte di reddito. Avvocato Padalino, poi magari siamo già sulla via della conclusione purtroppo questa mattina, ma io dico che se avete stabilito durante una separazione o consensuale o comprovando il giudice quell'importo, quell'importo è stato ritenuto congruo anche dal giudice. Quindi in questo caso la moglie vuole di più, deve dimostrare che necessaria che la cifra si alzi per determinare quali esigenze del figlio non sono soddisfatte, certo, coperte da questo assegno. Quindi il fatto che lei lo chieda a voce, Alessandro, non implica che lei debba per forza di cose versare di più. Giovanni Parente, ci manca un minutino e mezzo prima di chiudere. Quali altri aspetti non abbiamo affrontato di un tema così ampio come quello di questa mattina, anche se la trasmissione insomma è stata animata da tanti casi concreti che sicuramente l'ha resa più interessante? Ci sono molte, molte domande che nascono anche dalla giurisprudenza, che ci chiedono se e quando il ruolo dei nonni può essere in qualche modo suppletivo di quello dei genitori. La rete sociale, esatto, familiare. Esatto. Non a caso, insomma, uno dei nostri degli esperti, degli operatori interpellati, ci diceva che forse probabilmente in Italia un caso come quello della ricerca della felicità di Gabriele Muccino, in cui il padre si trova completamente privo di una rete intorno, non si verifica, perché c'è una forte rete familiare o amicale che in qualche modo dà un sostegno quando si perde completamente lavoro o reddito. Ecco, in questo caso bisogna dire che il ruolo dei nonni è in qualche modo spostato dopo la certificazione che i genitori non ce la fanno sostanzialmente a provvedere ai genitori, scusa, ai figli. Quindi insomma anche in questo caso insomma si può poi pensare a quale possa essere il ruolo degli altri familiari nella coppia che si separa. Poi la questione degli arretrati, che in qualche modo su cui comunque c'è molto contenzioso e che va di nuovo posta al giudice. In qualche modo tutto quello che l'abbiamo sentito anche dalla domanda dell'ascoltatore prima ha a che fare con i figli maggiorenni, in cui il consiglio che viene alla giurisprudenza è anche di farsi parte attiva e dimostrare che non sono più autonomi. Allora, c'era un ascoltatore che aveva pronta la telefonata, Luigi se non ricordo male. Io, siccome era un caso anche piuttosto articolato, gli chiedo di scrivere all'indirizzo o a noi di Salvadanaio @radio24.it, perché gireremo tutte le vostre domande a Giovanni Parente, che poi le metterà sul sito, oppure domani troveranno spazio sul quotidiano. Adesso andiamo alle parole della Previdenza. INPS, per saperne di più. Il concetto proposto oggi dall'INPS è regole previdenziali per i lavoratori del settore pubblico. I lavoratori del settore pubblico sono iscritti all'INPDAP, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche. Le regole previdenziali, un tempo differenti, sono state armonizzate con quelle del settore privato applicate dall'INPS. Permane una differenza per quanto riguarda le lavoratrici del pubblico impiego iscritte all'INPDAP, perché a partire dal 2011 l'età necessaria per la pensione di vecchiaia è diventata 61 anni e diventerà 65 anni, la stessa in vigore per gli uomini, a partire dall'1 gennaio 2012. Un'altra particolarità riguarda i lavoratori della scuola, ai quali viene applicata la finestra unica del 1 settembre di ciascun anno, che coincide con l'inizio giuridico dell'anno scolastico. Nella scuola la pensione decorre il 1 settembre successivo all'anno scolastico in cui sono stati maturati i requisiti pensionistici. Salvadanaio termina qui, grazie a Giovanni Parente, all'avvocato Carmelo Padalino per essere stati con noi, a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Torniamo domani, parleremo della nuova social card contenuta nel decreto mille proroghe. Da Deborah Rosciani, buona giornata.